La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. La puntata di oggi ha per ospite Claudia Milani e il Parkinson giovanile. Se ne parla poco e male, si raccontano altre prime volte. Eppure quella di Claudia è una storia che riguarda migliaia di persone e più o meno inizia per tutti così. Era... mi ricordo anche la data, 17 di febbraio era. Essendo un'infermiera professionale c'erano delle tracce, diciamo, nel mio corpo che mi davano un po' da pensare, no? Nei mesi precedenti alla diagnosi. Però come tutti noi non pensa mai a niente, cioè, no? Anche perché faccio un altro ulteriore passo indietro. Io vengo da una famiglia dove abbiamo avuto un papà che è morto di Alzheimer giovanile 20 anni fa, quindi vuol dire che insomma ha avuto l'Alzheimer quando ancora non era una malattia così conosciuta come ora, ma avevo proprio abbiamo vissuto con lui e con mia mamma curandolo in casa eccetera eccetera, quindi comunque c'era questa, diciamo, sorta di ricordo latente di questa malattia di mio papà, quindi questa cosa qui mi ha portato ad avere una sorta di rifiuto di questa cosa, cioè io non volevo sentire queste modifiche del mio corpo, però mi sentivo molto rigida, mi sentivo strana, avevo un blocco alla spalla e al braccio all'inizio e poi ho iniziato ad avere un tremore al mignolino della mano e anche del piede, allora gli ho detto ma insomma, poi ho vari incontri con vari medici eccetera eccetera fino a che arrivo da questo neurologo Albesta, che devo dire me la ricordo come un momento di shock, però uno shock relativo, nel senso che è stato molto delicato. E mi ricordo anche che questa sua diciamo, comunicazione a me, che comunque avevo degli strumenti per capire quello che mi stava dicendo, ma in quel momento non capivo, perché lui mi ha detto: signora, guardi, lei ha una... penso che lei abbia una sindrome extrapiramidale. Ha usato questo termine. Quindi lei adesso deve prendere questa pastiglia, questa pillolina, la prende per un mese secondo questo calendario, perché chiaramente è una terapia che non è equivalente, la prende per questo periodo e poi ci rivediamo tra 4 settimane e mi dirà come sta. Ora io sono uscita da questo studio, c'era mio marito e veramente il cervello umano è pazzesco, perché era, cioè dicevo, va bene, ho la sindrome extrapiramidale, prendo la pillolina, come se si raffreddore, no? Allora, quando ho preso il giorno dopo la primo quartino di questa meravigliosa terapia che è la levodopa, mi sono sentita sciogliere proprio, nel senso che allora lì poi, dopo c'è stato tutto anche il confronto con la mia famiglia, nel senso che le mie sorelle, mia madre, mio marito, eccetera, cioè sì, sembrava in effetti un robone, che io però non mi sentivo così, no? Però effettivamente, ecco, questa è la sensazione di scioglimento. E poi quando sono tornata dal medico un mese dopo gli ho detto, beh, io mi sono sentita molto meglio con la sua terapia, però questo non penso che abbia comunque un risvolto positivo, perché sicuramente lei mi dirà che questa mia malattia ha un nome, e di fatto poi mi ha detto che è Parkinson. Ci sono tanti tabù in una società come la nostra, dove fotografarsi i muscoli è diventato imprescindibile. Parlare di una malattia come il Parkinson giovanile fa parte di questi tabù. Claudia Milani questo lo sa bene e per tale ragione ha deciso di creare un'associazione che desse forza e voce a chi altrimenti si sarebbe trovato, magari in un pomeriggio di febbraio come accadde a lei, a fare i conti con una diagnosi difficile anche solo da immaginare. Allora, l'associazione è nata nel 2010 da un incontro di persone appunto con Parkinson giovanile. È nata proprio dall'esigenza di trovare qualcuno che fosse uguale a noi, nel senso che nell'immaginario collettivo il Parkinson ancora oggi è quello stigmatizzato nella persona anziana, tremante, e quindi diciamo viene descritta appunto con una modalità che non ci appartiene, perché noi comunque il parkinson giovanile abbiamo, diciamo, noi abbiamo fissato è quello che viene diagnosticato sotto i 50 anni d'età, ma in realtà colpisce anche persone molto più giovani, cioè 20 anni, 30 anni, e quindi vuol dire che è una molto diverso, perché ha una ricaduta nella vita quotidiana, con una ricaduta nel mondo, diciamo, nel tuo mondo sociale, affettivo, familiare, cioè proprio è una, come dico io, è come andare contro un treno in corsa, ecco, come tipo di impatto. E a te è successo, insomma, che ti sia stato diagnosticato e che a un certo punto non sapevi neanche? Sì, io avevo 40 anni quando mi è stato diagnosticato, sono a 51. E avevo una vita anche dal punto di vista lavorativo che mi dava molte soddisfazioni. Sono un'infermiera professionale, quindi lavoravo in uno studio privato dove facevamo procreazione assistita, quindi comunque avevo un lavoro che mi dava molte soddisfazioni. E diciamo che la diagnosi è quello che diciamo sempre noi, è proprio un punto di demarcazione tra un prima e un dopo, nel senso che c'è un prima dove la tua vita è assolutamente quella di ogni persona normale, tra virgolette, sana, e improvvisamente dalla diagnosi in avanti tu ti senti comunque diverso, perché hai una malattia che non conosci neanche tu, e spesso e volentieri i sintomi sono comunque non motori, magari come esordio, quindi ci sono magari delle, e poi ha una implicazione psicologica molto forte, e questo determina il fatto che tu comunque hai una situazione di diversità e di modifica della tua vita che chiaramente non hai scelto, e quindi ti devi andare poi a gestire, ecco. E tu però insieme ad altre 5 persone hai anche fatto un atto, come dire, di apertura a chi sarebbe arrivato dopo, no? Cioè, aprendo questa associazione hai detto: io non voglio che chi arriva dopo si ritrovi come noi, cioè a gestire informazioni, a sentirsi solo. Esatto, questo è proprio, diciamo, l'obiettivo più importante per me, nel senso che io, quando appunto mi hanno diagnosticato il Parkinson, non avevo nessuno di fronte a me, cioè io alzavo gli occhi e vedevo un immaginario che non era il mio. Quindi per me, siccome credo che sia una cosa importantissima quella di condividere con persone che come te hanno la tua stessa malattia, questo veramente fa la differenza. Quindi è anche l'informazione è una delle prime cose importanti, perché se tu fai informazione crei anche una possibile formazione delle persone che possono essere anche sia quelle della tua famiglia, nel tuo ambito sociale, anche dei medici stessi che ti curano, insomma, e questo è sicuramente un passo fondamentale per una persona che ha Parkinson giovane. E quante persone vi contattano? Cioè sta crescendo, allora, sta tenendo riscontro? Sì, nel senso che sono tante le persone che sono associate in modo canonico, nel senso che danno una quota, quindi si associano all'associazione, ma sono tante le persone che contattano l'associazione attraverso il sito web che abbiamo poi fatto, diciamo, rifatto in questo ultimo periodo, o attraverso la pagina Facebook. In Facebook c'è un mondo molto prolifico e vivace di persone con Parkinson. Puoi darci l'indirizzo in modo tale che chi l'indirizzo, ascolta magari... Sì. L'indirizzo della pagina del sito è www.parkinsongiovani.com. All'interno poi ci sono tutti gli indirizzi, all'interno ci sono tutti i social, eccetera. E appunto questo è, e come dicevo, c'è proprio un contatto, una richiesta di contatto diretto molto, molto forte, anche perché la nostra scelta è quella che secondo me è un po' diversa appunto dalle altre associazioni. Noi abbiamo scelto di metterci la faccia, io dico sempre, nel senso che comunque ci siamo noi con le nostre storie in primo piano, e questo è veramente fondamentale. Cioè, c'è un ritorno di persone che magari non hanno il coraggio di esporsi, ma che magari leggono e quindi si ritrovano in una testimonianza, possono avere una sorta di, diciamo, cura palliativa rispetto psicologica, magari di primo impatto, di primo acchito, molto importante secondo me. Ci fermiamo per qualche istante, torniamo tra pochissimo. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Questa è la storia di Claudia Milani e di una serie di passaggi della vita che l'hanno portata ad essere quello che è oggi. Una donna intelligente, forte, sensibile e comunicativa. Una donna a cui a un certo punto della vita è successo un fatto che, come dice lei, è stato come andare contro un treno in corsa. Ed è stato il momento, la prima volta, in cui ha scoperto d'essere affetta da Parkinson giovanile. Il mio percorso è stato un percorso di, sicuramente non ho mai voluto combattere il Parkinson, perché per me è molto importante accettarlo, è stato molto importante, anche se è un percorso lungo, questo dell'accettazione, non è immediato, però sicuramente è la strada che per me personalmente è stata la migliore percorribile in senso assoluto. E questo percorso si è svolto proprio lasciando alle spalle quello che poteva essere la Claudia di prima, nel senso che accettando questa diversità di vita, io dico sempre, cioè non è, io faccio tutto come prima, nel senso che però lo faccio in modo diverso da magari da te, perché posso essere diversa nel modo di il mio corpo può essere diverso, posso tremare o posso camminare in modo strano, o posso avere dei momenti in cui sono rigida e quindi non mi riesco a muovere come vorrei. E poi ho fatto anche la stimolazione cerebrale profonda, che è una terapia chirurgica del Parkinson giovanile e anche del Parkinson senile comunque, e questo è un'altra modifica del mio corpo. Insomma, io vado in giro con due stimolatori che sono all'interno del mio torace, con questi elettrodi che sono all'interno appunto del cervello, quindi tutto questo determina delle modifiche anche nella vita, insomma, quotidiana. Adesso, non so, mi viene in mente, vado in banca, non posso passare attraverso il metal detector, quindi suona lì, passa là, cioè è tutto molto più complicato. Però questo per dire che prima all'inizio della malattia, della mia malattia, erano cose che mi sembravano incredibilmente difficili, tutte queste. Adesso proprio il fatto di, sicuramente è passato il periodo di shock iniziale, eccetera, eccetera, io riesco a, come dico, a tremare come ne ho voglia, nel senso che anche se vado in giro per la strada e tremo, come in questo momento mi trema una gamba, ok, mi guardano, va bene, mi danno dell'ubriaca, come è successo magari per la strada, nel senso che è chiaro che se tu vedi una persona che cammina in maniera così, io semplicemente sono un po' ondivaga, no? Ecco, a volte mi succede una persona per strada mi dice, che sei ubriaca? No, non sono ubriaca, sono semplicemente al parco, spesso magari rispondo anche in questo modo, ecco. C'è molto pregiudizio rispetto, il fatto che se ne parli così poco, da cosa secondo te? È una malattia nuova o semplicemente come tante altre? Non... In realtà secondo me più di altre il Parkinson è una malattia che non viene, conosciuta e nominata, perché è una malattia molto... subdola, nel senso che è una malattia che sta nascosta, quindi tu vedi una persona magari di fianco a te sul tram o comunque mentre passeggi per strada, può avere tantissime cose che uno non conosce perché apparentemente è sana, ecco, perché nella nostra società questo è, cioè il fatto di avere comunque un modo di essere sempre perfetto, tra virgolette, cioè nell'immaginario, non è che sto dicendo delle cose, nell'immaginario collettivo noi siamo persone sempre che dobbiamo avere sane, tutto a posto. Anzi, nell'età comunque il clou 40-50 anni siamo tutti belli, energici, perfetti, magri, perché dobbiamo seguire una certa... E quindi tutto ciò che si discosta da questo per noi non viene considerato. Per questo secondo me che non vogliamo vedere, ecco. Cioè, c'è un tabù, dici, legato anche a trattare la sofferenza, cioè una cosa che non deve rientrare in qualche modo prepotentemente. Però i numeri dicono il contrario, nel senso che mi sembra di capire, tra l'altro, che il Parkinson giovanile sia in aumento. I numeri sì, il Parkinson in generale è in aumento, si stima che siano circa appunto 250.000 le persone con una malattia di Parkinson, di queste il 5% a meno di 50 anni, e quindi insomma i numeri ci sono. Però come ti dico, sono persone che comunque stanno molto nascoste, perché non so, in America c'è Michael J. Fox, che è un portabandiera, oltre che una persona che ha fatto e fa molto per il Parkinson. E io dico sempre, cioè, è impossibile, che voglio dire, con la percentuale comunque che è molto alta di avere Parkinson, non ci sia in Italia qualcuno che può avere comunque, che si possa essere anche un portabandiera. La ricerca a che punto è invece? La ricerca, come si dice, è un punto in realtà, tra virgolette, è morto, nel senso che non ci sono all'orizzonte cose particolari, nel senso che non si conosce comunque la causa di questa malattia. Quindi tutto quello che c'è di nuovo sono, cioè di nuovo, tutto quello che ci può curare sono dei farmaci, quindi dei farmaci che appunto sono comunque sempre quelli da un tot di anni. C'è la terapia chirurgica, appunto, che è quella che, di cui ti dicevo prima, la stimolazione cerebrale profonda. E ci sono per tutta una serie di terapie complementari che sono molto importanti, che sono importanti, ma che sono comunque anche qui molto faticose da andare poi a raggiungere, perché per dire, ti faccio solo un esempio molto breve, è importante fare, non so, la terapia fisioterapia, non dico tutti i giorni, ma sarebbe opportuno, oppure avere una possibilità di un supporto psicologico. Utilissimo il supporto psicologico nel Parkinson giovanile, è secondo me veramente una quasi fa meglio di una terapia farmacologica, perché nella mia esperienza io ho avuto una, diciamo, depressione dopo un periodo iniziale, dopo un anno e mezzo dalla diagnosi, e mi sono rivolta, non ho voluto prendere ulteriormente farmaci antidepressivi, ma mi sono rivolta a una psicoterapeuta. Io ho fatto 3 anni di psicoterapia e questo mi ha veramente aiutato in una sorta di accompagnamento all'accettazione, alla presa di coscienza. Sì, perché poi tu li puoi parlare delle tue paure più, cioè cosa che a casa, avendo dei figli, un marito, cioè, non puoi caricare probabilmente più di quello che già inizialmente hai portato come peso, per cui è sicuro. E quindi voi come associazione vi state anche battendo perché vengano riconosciute queste cose? Noi sì, ci stiamo appunto cercando di creare una sorta di dialogo tra le varie associazioni che rappresentano il Parkinson, perché penso che sia opinione comune tra tutte le associazioni che insieme sicuramente si fa molto di più che non da soli. Quindi è questo il fatto di dire, cioè dopo il primo shock iniziale, dopo il fatto di rifiutare, dopo il fatto di insomma una vita modificata, il concetto che è una malattia cronica vuol dire che sarà sempre con te. Quindi per me personalmente è stato molto più importante scendere a patti col Parkinson, cioè il Parkinson è comunque parte di me, quindi devo un po' farci, come dire, prendere le misure con questa cosa. E successivamente queste misure poi mi sembra che sia giusto trasmettere alle altre persone. La prima volta termina qui. Radio 24, la prima volta, l'indirizzo che dovete digitare per trovarci. Potete scriverci anche all'indirizzo laprimavolta@radio24.it. Buona domenica a tutti, da Cristina Carpinelli. Thank you.